Viaggiare ti fa vivere, vivere, vivere. E dopo un viaggio non sei mai lo stesso. Parole nuove, strani motivi per ridere. Ricordi che non vedi l'ora di raccontare. Ma che bella bugia la felicità. Prima ti bacia e poi ti prende a botte. Ma che strana follia la felicità. Ti corre dietro con le scarpe rotte. Io volerei lontano da qua per un giorno leggero. Sì, c'è una strada che sale lungo la schiena e puoi solo prendere e andare. Senti l'anima accesa, niente che pesa. Perdersi per ricominciare, a volte basta così. Così, così, così, così. E a volte basta così. Così, così, così, così. Viaggiare non è correre, correre, correre, ma rallentare dopo tanto tempo. Il mondo è una tovaglia piena zeppa di briciole, lasciate in tavola per farti venire fame. Ma che bella bugia è la felicità. Corre veloce con le gambe corte. Ma che strana follia è la felicità. È la felicità, è la felicità. Sì, c'è una strada che sale lungo la schiena e puoi solo prendere e andare. Senti l'anima accesa, niente che pesa. Perdersi per ricominciare, a volte basta così. Così, così, così, così. E a volte basta così. Così, così, così, così. E volerei lontano da qua per un giorno leggero. Sì, volerei lontano da qua per sentirmi leggero, leggero, leggero. Senza più limiti, la pelle bacia nuovi lividi. Perdersi per ricominciare, serve perdersi per ricominciare ancora. Sì, c'è una strada che sale lungo la schiena e vuoi solo prendere e andare. Senti l'anima accesa, niente che pesa. Perdersi per ricominciare, a volte basta così. Così, così, così, così.